say everything. This is almost a year later. Everything he eats tastes like it. Yeah, that long term is a sauce. Suppose we're still doing about 500. Tartalino. Giulio. Tartalino. Tartalino. Adesso è per te il telefono. Получение лицензии международных перевозок. 1000 рублей. se sei in ascolto. No, no, io vai, cuomo. Luca. Oh, dimmi. Come sto uscendo di radio? Basso. Aspetta un attimo. Guarda, è così perché sto usando il microfono normale. Adesso è più migliore, non più meglio, più migliore. Ok, vabbè, sto usando il microfono normale, capito? Va bene, vabbè, siamo vicini anche. Bisogna avere lontananza, comunque già va bene, perfetta, pulita. Sì, non è un microfono amplificato, c'ho questo so. Già va bene, già va bene. Cristian. Vabbè, buonasera a tutti. Già mi senti, sì, con le orecchie. No, ti sento anche con l'altro, se per quello. Dove sei, Cristian? All'agraria. Ah? All'agraria. Ah. Sì, arrivi benissimo anche qua. Ma te lo senti a Cristian, sì? Io non sto uscendo, sembra strano. Natale. Sì, arrivi bene, ma se Natale non si è spostato, boh. No, già sono qui adesso, dai. Io sono piccolo e basso. Già arrivi lo stesso, Cristian. Io sono piccolo e basso, adesso mi abbasso. E anche io sono piccolo e basso. Adesso sono abbassato anche, fidati. A me mi si arriva in giro a testa. Poi io sono già pari. Ah, pogusso è. E sono staccato. E sto parlando con un barracocco della mutua io. E dove va? E vabbè dai, mi devo accontentare. Ecco, io sono più basso, va bene. Sono più basso adesso. Eia. E non ci posso fare niente. Io sono piccolo e brutto, è pelato. E anch'io. Sono basso basso, anch'io. C'è Luca, è alto, bello. E basso. Cazzo, ma bello, eh? Io sono alto snello. E c'è anche la barba, mi. Allora, sono, però adesso sono un po' comune, come te. Ehi, io ti ho visto sotto al ponte, poi... Ma devi essere vicino qui, perché Natalino non passa, dovete parlare assieme, non si capisce l'uno nell'altro. Ma io sono al mercato, poi vedi tu. Cazzo, vabbè, a Natalino praticamente siete alla pari, eh. Vabbè, siete vicini, so che lui è in macchina, tu sei a casa, è strano. Ehi, sarà attaccato, guarda, scusando gli altri. Non ti trovo in giro, te lo faccio vedere. No, niente, no, non si capisce, avete parlato in due, ma non si capisce l'uno dell'altro. E perché c'era, avrà un linearone grosso, sicuramente. Se passa lui, c'ha il lineare. Io queste cose non le faccio. E non le fare tu. Però se passi tu, confronto a me, vuol dire che c'è qualche linearone grosso. Attari, chi sei cuocuomane, stai attento. E lo so che lui è cuocuomane, questo Cristian. Non è possibile che passi tu in macchina, capito? E io non passo. Magari che mi chiude la recensione è possibile, però a passare dovrei passare io. Quindi non mi passi. Come qui? 747 non mi passi. Ma io non ne ho lineare. No. E poi se voglio passare passo lo stesso, di prepotenza. È che io adesso non ho niente, però se voglio passare passo. Gabriele, capo. Io ho 747 per scaldarlo un pochettino, capito? A Baida si passa là. Oh boh, questi ragazzi d'oggi. A passa lui. Sto a fischiare, aspetta, ci stavano chiamando un attimo, arrivo subito, stavo telefonando. Sto provando il 747, mi sono comprato da poco, lo sto provando. Ma io l'ho detto che avevi il lineare, perché sennò non è possibile. No, mi sono trovato, ho trovato 40 euro, me lo sono comprato, ho trovato benissimo, non dà problemi. E ho capito. Allora, differenza adesso, guarda adesso dove. Ma adesso non sei al mercato, no? Adesso sono di fronte a Simon. Cappa. Adesso sono staccato però. Come? Adesso sono staccato. Ehi, a te vede che sei basso adesso, sei più basso. Poco fa mi stavi arrivando a fondo schiena. Così a fondo schiena? Prova. Così a fondo schiena ti arrivo. No, 9,5. Ah, già funziona bene, dai, non posso lamentare. Ehi, già funziona bene, sì. Adesso è perché sei lontano, non sei vicino a me. Poco fa quando eri vicino mi arrivavi forte. No, secondo me è da parate che è diverso. E anche quello c'è. Se hai preso a caso da parcheggiato. E il K. Che parate, tutto a posto in zona? Ehi, tutto a posto, è da mettere a posto. E dai, si mette a posto per non fuori, no? Ehi, non si buonga a pusci allora. A casa oggi è rimediato, pure. Come? A casa oggi è rimediato con mio padre, tutto a posto. Ah, K. Tutto a posto, niente di aperto. È uscito, aveva tolto delle, aveva fatto insieme al diabete pure, guarito. Vabbè, io me ne passo in ascolto un attimo che sto facendo cosa. E io vado a scendere, fumo una sigaretta in tranquillità, se vuole pure in gnocche, dai. E fa così, saluta le te da parte mia. Io andavo poi facevo una riunione di famiglia, di CB, va. Ok, ok. Faccio un nuovo CB in circolazione. Hola. Su Pantaglio, io voglio cantare una canzone, tanto già vabbè ci sono 1, 2, 3, 4, 5 persone prima di me, e niente, qua c'è Natalino e Cristian, chi siete Natalino e Cristian? Al tempo delle mele, al tempo delle pere. E adesso si fanno le pere, è vero? Perché non se ne fa quel po' come Natalino le pere? Buonasera a tutti. Ciao Cristian, ti volevo chiedere una cosa, non è che per caso tu sei andato da Italy nei garage e hai trovato l'antenna mia, no? Sì, sai che l'ho trovata? Saverio. Cosa? Saverio l'ho trovata. Ecco la mia, l'antenna mia, me la sono dimenticata, come si dice, per caricare la spesa, me la sono dimenticata a fuoco. Ho visto, ma che a Saverio sabato quell'antenna lì. E allora glielo dico, se ce l'ha lui, se me la torna perché è la mia. Come ci avevi sempre in macchina già? Ehi, la tubo 2001. Cazzo, ma pure giù già, aio dai, se ne vuole, ho dimenticato un'antenna così grande. Cavolo. Lui l'ho tolta perché mi stava dando fastidio, stavo caricando la spesa. Poi l'ho appoggiata alla colonna e non l'ho più trovata. L'ha trovata il compagno, il cugino di Saverio, lì nel Salue, e c'è Saverio in macchina. Sì, vabbè, se me la butti un nome, la dona, se no lo lascia. Sta cercando, ti dirò un turno se c'è una base che non voglio mettere. No, l'ho trovata, c'era di Italy. Sì, sì, era la mia. Sicuramente qualche CB che l'ha trovata, se no cosa si rimase lì? Ho chiesto a quelli di Italia, mi ha detto guarda c'era perché l'ho vista, era appoggiata, toccate se non l'hai presa. L'ho vista sabato notte a Saverio in macchina, potete vedere Saverio, l'ho visto lì in zona, al circolo in via Sosso. Kappa, e vabbè là. Se me la vuol tornare me la torna, se no se la tiene non c'è problema. Avanti Luca. Se mando un messaggio, aspetta. Luca. Non si già sa video che perché sono già stato con il bus più. Turbo 2001 è già. Dille che la mia che la riconosce in punta c'ha il termo restringente perché avevo perso il pirillino e ho messo il termo restringente. Ma tu l'ho visto era non nuova, fiammante. E basta, dille. come era antenna, e non c'è problema, c'è anche quella così, la riconoscerei in mezzo a mille perché c'ha dei segni particolari. Già, ce l'hai il numero di Sabino, chiamalo, vedi un po', sentilo. Infatti mi ha detto, a me, mio compagno l'ha trovato, mio cugino, non so, detto, l'ha trovato a me vicino a Ditele, questa antenna qui in terra, e l'ha raccolta. Luca, io ho detto, cazzo, che culo che c'hai, complimenti. Sentiamo che ti ho scelto. No, aspetta un attimo, sono al telefono. Ehi, allora. Gianni. Gianni, ci sei? Luca, c'è qualcuno? Ci sono io, già. Ehi, guarda, stai là. Oh, bene male che l'ha fatto bene. Lui ce l'ha? Ce l'ha lui. Gli ho detto, gliel'ho descritta anche, perché in punta l'avevo messo per l'ora stringente, perché ho perso il pirillino. E poi l'ha appena piegata in punta, gliel'ho detto, ma che è la tua, perché è così. E così almeno te la torna. Ma tu pure, ad agattire anch'io. In realtà di quando fa un miricoso stavo caricando la spesa, siccome non ci stava l'acqua, veniva male a metterla perché ce l'avevo a fianco a sedile, allora l'ho tolta e l'ho appoggiata alla colonna, ho caricato la roba e mi sono avviato, capito? E non me ne sono ricordato, sono andato a metterci il carrello e mi sono dimenticato l'antenna, però l'ho pensato che era un CB, capito? Più che un CB non si può pigliare una cosa così ingombrante. Infatti lo dico frequenza, se sono onesti me la tornano. Visto, no, compagno di un CB. Grazie qui, l'ho telefonato e siamo messi d'accordo, domani me la porto. E niente, beh, tranquillo. No, pensavo, ho visto, ho trovato lì, una nuova, ma chi può essere, fatto, ma poi a te non ci ho manco pensato io, lo sai. Tu invece ci devi pensare, io faccio la spesa lì, cazzo, se ho dato un 2000 euro. Vabbè, magari non ci ho pensato, no, se no gliel'avresti detto. Vabbè, va, pazienza. Io pensavo che tu sei la base magnetica, tu hai la base magnetica, ti ho la base magnetica, ma... Sì, no, io la tengo, la base magnetica la tengo in macchina, anche l'antenna, quando voglio piazzarla la piazzo, capito? No, io, certo, io la, se voglio staccare l'antenna, la stacco l'antenna, la base magnetica la stacco, la base sulla cappotta anche. Appagato. Vabbè, là, tutto bene, ciò che finisce bene. Sono contento, dai, almeno quello. Andare. Anche perché la regola testazionale è tutta perfetta, capito? Ma vabbè. Gianni, dammi un controllo, come sto uscendo? Ma di radio di Santiago. Tutte e due là. Sì, radio 5 Santiago 9 e 10 qua, però è un po' riminzo questo. Vabbè, l'importante è che la radio sia buona. Sto usando l'apparecchio della macchina, là. Quello piccolino? Sì. Vai bene. Non c'è problema. Va benissimo. Anch'io ho fatto piccolo la macchina. Sì, ne ho fatto tutto il giro a vedere se c'è, ma l'ho trovata, deve essere qualcuno, l'ha presa e poi ce l'ha buttata, l'ha trovata nella rotatoria. Ma va, poi l'ho trovata nella rotatoria, come ho già detto, mi trovata la rotatoria, l'ho trovata in terra. Mio cugino, mio compagno, non so, l'ha detto Saverio, stavo da mezzo, che era in giostra quel giorno. Sì, l'ha trovata nella rotatoria, ma io l'ho lasciata nella rotatoria, l'ho lasciata nei parcheggi di ditta, l'ho appoggiata a una colonna. L'ho solo spostata, cioè il mio intento era spostarla per metterci l'occhio e poi l'avevo rimessa. Invece poi ci ho messo il carrello e mi sono dimenticato. Qualcuno l'ha presa sicuramente e si è stampata in giro. Tanto l'apertura te l'ha lampata. Sì, probabilmente era qualcuno che non se ne faceva nulla. Ma è poco sicuro, riprendite il Natale. Sì, cappala. No, era solo per un controllo, per vedere come sta uscendo questo apparecchio qua. Vedete, sento benissimo, la radio pulitissima. Adesso dove sei, Cristian? Grazie a Castello. Se Santiago... Fai vedere, prova. Perché? Non sta arrivando bene? È Santiago 9. Come sta arrivando? Circa 9, sì, 8 e mezzo 9. A te adesso? Adesso che l'hai attaccato. Adesso l'ho attaccato. Allora, metti attaccato e staccato, aiuto. Adesso attaccato. E poi prova. Adesso attaccato. Ma non cambia molto, non cambia molto. Siamo vicini anche. Non lo so, magari anche lo smutter che segna male, non lo so. Sempre più o meno 8 e mezzo 9, sì. Già va bene, dai, anche senza va bene, dai. Mi sa che sale poco, che non sta sta funzionando bene. Già sei, fidati. No, lo so. Vabbè. Natale. Uia. Cosa stai combinando? Sto facendo cosa? Fai cosa allora? Cristian, dove si dirette? Sì, tra casa, per fare un per casa, e poi verso le campagne. Aiaia, che paga. Per la partita per la scarica a mille, per questo qui, Ma stai lavorando qui? Sono fermo, che cosa fa maggiore? Sempre quei dolori? No, per mio padre. Ah, è ancora al ghero, No, sei a casa. E sta meglio? Sta meglio di me. Cosa? Non ti ho capito. Sta meglio di me, non c'è più niente. È diabete, ictus, zero. Sta bene. Va bene, dai, meglio così. Lo so perché sono cose che purtroppo se non ci pensano che ti si pensa di più. C'è un tiro di bianco, sono al telefono. Oh Gianni. Vecchia. Ehi, allora, adesso mi sposto un attimino e vengo subito, Circa 10 minuti, un quarto d'ora, Ehi dai, fai, io intanto sono da casa. Voglio avere un buttato capire grande di casa, in campagna. Ok. Dilla. E già, sono un attimino da Podica a prendermi la cena, dai, due pizzette mi compro. Come vai? Aspetto, che sto andando un attimino da Podica a comprarmi due pizzette. Io me le ho mangiate ieri, ma le ho prese sotto casa, sono un bel buono. Ma a me viene meglio andare da Podica. E sono buone anche lì, sono più o meno sono uguali, sono croccanti come quelli di Pudine, quelle che fanno qua. Perché mangi anche? Qualche volta mi tocca Cristo. La pizza la prendo io da Bagraziella. No, le pizzette al taglio stavo parlando, io le prendo sotto casa, sono ben buone, sono croccanti. Le pizzette al taglio io le prendo di solito da Graziano, la veloce, e il pizzetto da Bagraziella. Perché le fa le pizze al taglio, Graziano? No, da Graziano, la veloce. Ah. No, ma io ce l'ho sotto casa, figurati, me la porta a bollino. Il problema è che la Bagraziella è attaccata a casa, si può dire, ma poi dei chilometri. Vabbè, a te ti conviene di più vicino. Solo che adesso è un casino, quando devi andare dove passi, devi fare tutto io. No, è dentro dei parcheggi di dietro, la Bagraziella. Ah, ok. Io pensavo che quella avesse aperta con la strada, invece non l'hanno più aperta. No, qua aprono mai la strada, mancano le scatole da aprono. Prima era doppio senso. Una mattina lì, Cristian, una mattina stavo andando a lavorare, ho visto che questo tipo si è abbassato il pantalone in fretta, si è buttato a cagare in mezzo alla strada. E non è lui che lo fa, E pare che lo fanno, fidate. Non essere d'urgenza, qualche tacco di gusci. Si è messo dietro la macchina, ma si via tutti. Sì, poi c'è una strada che volge proprio da mattina, si vede dove sta andando. Io stavo scendendo verso Graziella un po' prima, dove c'è quel punticello, che lui si è messo fermato con la macchina, in fretta è sceso, si è abbassato il pantalone, ma gli dà pure a fare. Lì è che era un affare urgente con l'avvocato. Cazzarola, non risate mai giù fatto. Dire era solo di proverbio che il tuo dio pesa, e quello ha pesato. È urgenza era, non ce la faceva trattenersi se invece. Oi. E a vedere Santo Bastiano, andate? No, sono andato. Io l'ho visto la scorsa volta. L'ho visto proprio appena avevano chiuso, l'ho fatto una bella vita. C'era una fila chilometrica sia che scendeva da via Roma, sia in salita da via Roma. Ma roba di gente che c'era. Ui. Io sono andato, non ci tengo neanche andarci, guarda. Vabbè, se ci vai solo per fare visita, per guardare com'era, no. Il brutto è quando ci vai ci devi rimanere. lì non ci andrò mai, non ci andrò mai, non capisci. Io l'ho vista, è un po' macabra, le varincelle strette, piccole, tutto, c'era il bagno a vista, se uno doveva andare in bagno, l'altro stava mangiando, si doveva sciupare un bianco di lastro. Che peggio. Però... io vabbè, ci avevo già un'idea di come potessero essere, come le fanno vedere in televisione, sono lì, uguali. Sono fatti in serie le carceri, sono usciti. All'entrata c'è il circondariale e poi c'è la Madonnina, l'entrata. E sono fatta stare fila, dai, e poi vabbè, dai. Allora, una gita con la fede dentro, una gita. Ma dite, no, ma io, ma io sono andato anche a Mamone, perché quando lavoravo con la te mi consegnavamo la roba nelle carceri e addirittura ti quando arrivavi ti prendevano i documenti, ti chiedevano i documenti e te li prendevano, poi all'uscita te li davano. E andavi nello spazio e c'erano i carcerati che ti aiutavano a scaricare la roba. E io. Però dentro, no, dentro non ci sono entrato. Noi ci mettevamo all'esterno, loro c'era lo scarico e ti prendevano la roba. Quello sì, perché c'era, ero un paio di amici dentro io anche. Poi ci sono delle carceri che praticamente non sei mai carcerato, sei tutto il giorno libero. Ma è duro che è stato lì. Detto che sei tutto il giorno libero, non li chiudono nemmeno. A una certa ora poi devono ritornare in cella, però il resto tutto il giorno libero, giocano, fanno, vanno al biliardino, ma ragazzi, un ritrovo tra amici. È un circolo, dai, perché nativo? E allora, certo, c'hanno tutto. Perché da lì non possono scappare, perché ci sono le jeep che dice che stanno sempre girando attorno, tutto pieno di guardie carcerari. Devo fuggire. Poi se fuggi ti raddoppiano la pena, non so se governo. No, se la tilippicano la pena, non te la raddoppiano, peggio ti fanno. Deve essere una cosa brutta, deve essere una cosa molto brutta stare in carcere. Io poi che ho sempre bisogno di uscire, di fare, di girare, e sono fatto così adesso per dire che sto male, non posso uscire, faccio solo le cose essenziali, però... ne soffro perché mi piace uscire, mi piace vedere, girare. Poi io attualmente ho un ginocchio che sta in crisi, non so perché, e la pressione mi sta abbassando più spesso e volentieri. Ma dove ancora ce l'hai tu qui? La schiena no, ma il ginocchio neanche, però ogni tanto mi si blocca mai tec. Ascolta, ma hai mai fatto, ma hai preso quegli integratori che vendono in farmacia? Io li ho presi, quelli all'acido ianurico, a me mi hanno fatto bene alle ossa, a parte vabbè il femore, però alle altre ossa che non riuscivo a muovere le mani, i piedi, mi venivano i dolori, non mi sono più tornato. No, non mi ha preso, guarda, quando ci vediamo ti do il numero di telefono e mandi il numero della medicina. Praticamente io ho preso l'acido ialuronico di quello proprio puro, capito? Non ci mancano 30 euro un flacconcino di pastiglie. Si può comprare, se fanno bene si possono anche comprare, senza problemi. Quello lì a me me l'hanno fatto passare, almeno i dolori che avevo prima al braccio, mi veniva alle mani, perché io c'ho la coxartrosi in tutto il corpo, capito? Io ho chiamato invece la fisioterapista di mio padre, si è messo a posto un bicipite nel braccio sinistro che era stato strappato. E allora mi avevo consigliato un chiropratico, ma non è questione di queste cose qua, il mio è consumato, il femore per forza ci vuole l'operazione. Ma le altre ossa, la coxartrosi, che a furia di fare sollevare pesi e cose, mi è venuta la coxartrosi e i dolori ti vengono, capito? Ho fatto questa cura, grazie a Dio, per il momento non sento più nulla. Prima mi faceva, mi si bloccava il braccio, mi faceva male la mano. Sai, quando ci vediamo ti lascio il numero di telefono e mi mandi il nome, perché io ho strappato il muscolo del braccio e il bicipite ho strappato nel braccio sinistro e devo fare una lettera apposta alla fisioterapista anche. Adesso il nome, devo guardare se ce l'ho ancora nel telefono, perché l'avevo mandato a Claudio. Claudio mi lo sa, perché l'ho mandato a lui, perché aveva dolori e ha detto che se l'ho comprato. E me lo sanno il mio telefono al baracchino, ma posso non lo dove il numero di telefono è mio. Vabbè, non sanno che ne puoi il mio pure. Se ce l'hai tu il mio, lo sai. Aspetta un attimo che controllo. No, che avevo fatto pulizia al telefono e non ce l'ho più. Comunque l'ho preso, guarda, nella farmacia che c'è, via Ciria Coccaro lì. Ed è un flacconcino con delle pastiglie, tu dici acido ialuronico puro con le pastiglie e te lo danno, c'hanno quello lì e buco. Ok, dai, benissimo. Guarda, io sono, diciamo che grazie a Dio dolori mi sono, diciamo, passati. Ho queste linee che sono passate, niente di che. Ma devi prendere due al giorno, una la mattina e una la sera. A me quando ho finito le pastiglie non avevo più dolore. Speriamo, adesso ci provo, dai. Costano perché costano, costano 30 euro, però ne vale la pena, se ti fa passare la roba ne vale la pena, ma si vede che avevi di là. Guarda, per te scherzi, per la salute io posso anche spendere, per mangiare, per quello, per la salute. Sui vestiti posso anche risparmiare anche 20 euro, non me ne frega niente. C'è una maglietta diversa, una Dolce Gabbana, non me l'ha tenuta, però c'è una maglietta per uscire. Infatti. Fatemi 3x2, sono sopra la mia macchina, sopra un'altra macchina, aggiustandola, e me la fracasso in merda. Perché cosa stai facendo? Non è cazzo? Anche il carrozziere. Anche il carrozziere faccio, ogni tanto. Ma cosa fai? La macattura, roba così? Io ho un amico che fa il carrozziere, gestiamo la macattura, tiriamo macchine, un po' di tutto, dai. Ah, va bene allora, tutto fa brodo. Scusa, perché è la mia, non la sto gestendo la macchina mia, di meccanica. La montatura l'ho fatta io, il frino l'ho fatto io, mi sono rotto un tubo l'altro giorno, che va dalla turbina al filtro, l'ho messo io, mi sono rotto il tubo dall'acqua, l'ho messo io. Se uno si sa arrangiare risparmia anche, naturalmente deve saper rifare i lavori. No, per la turbina l'ha portata la torre, ma non me l'ha fatta, non l'ha fatta lui la turbina, ma l'ha fatta lui. Posso garantire una cosa, è una bestia. Vabbè. No, io la verità non è facile questi lavori. Posso cambiare le liquide, mettere le liquido, questa roba qua sì, però altre cose non le faccio nella macchina, dico la verità, la porto sempre dal meccanico, è onesto il mio, ti fa pagare il tanto giusto e te la fa bene, come si deve. Guarda, io ho messo il tubo nuovo della turbina che va al filtro, sono sceso a Ghera, prendo una macchina con un amico, salendo, 190 me l'ha fatta a tachimetro. La tua? Sì, è la mia, quella di mio padre, che mi ha preso il jet. La mia a gas li fa 190-200, li fa a gas la mia. Oh, la mia appunto li fa 170 a gas, l'ho fatta scendere io poi. Io la mia anche l'ho provata un pezzo, poi ho mollato per vedere quanto tirava, però ho avuto paura di accelerare tutto. Tira già camminando un metro ed era già 200, abbiamo fatto il filmato mio figlio, l'ha detto col telefonino, ha filmato il contatti lui. Guarda, io sta qui l'ho tirata per mio padre quando lui è stato un giorno era a Luisano, ho preso a fare, si è aggravato, venite subito perché non si sa, ci ha messo 40 minuti a scegliere a fare 6 euro di sano. Esagerato. Sì, l'ho fatti, a 200, in quinta con l'imitatore, si è sentito, in quinta l'imitatore anche. Per mio padre l'ho fatto, al ritorno a 60 all'ora. E poi invece non lo posso all'anno. No, poi era tranquillo, niente di che. Cioè, succede la ieri di uscire, qualcosa che ti può di ammazzare, camminendi, poi, vabbè. Interessante, vabbè, mi dovresti stare andata così, Cristian. Dai, per me, dai un attimino. Lucrezia, sì, dai, io sto spero, non vedi su, bisogno. Oh, Lucrezia, sei andata a dovresti le pizze da Pudica. Se l'avrà già digerita a quest'ora. Io ieri me ne ho mangiato 2, 4, ne ho preso 6. Due se l'ha mangiate e i 4 me l'ho mangiati. Io ieri mi sono andato a prendere la sotto a Bagrazzello, ho dato le pizze e le sono prese. Sotto a Bagrazzello, sono passare a casa. Ma quanto te ne mangi tu? Io mi sto mangiando, se è presente, prima mangiavo una tonnata di roba, adesso ne mangio di quella tonnellata, un 36esimo. E anche io sono a dieta un po', non sto mangiando pane, pasta, però le pizze mi fanno male, una volta alla settimana me le prendo, o la pizza al taglio, la pizza normale me la prendo, prima le prendevo anche 2-3 volte alla settimana. Ma io sono passato da 64 di pantalone a 54, sono passato, non so come abbia fatto neanche. E magari ti sei messo d'impegno, io pare per dire pasta non le sto mangiando già da un pezzo, mangio. Secondo, due frutte, dai, due arancia, due mele, così. Allora io se mangio la pasta non mangio pane, non mangio altro, perché la pasta ci metto carne, formaggio, cioè voglio condita decentemente. Se mangio carne, carne salata e pane, la pasta non le mangio, capito? Bilancio i cosi, perché avendo un padre diabetico, ho dovuto fare un contromesso, tra me e mio padre. Qui occhio, perché anche mia madre era diabetica e me l'ho preso il diabete, quindi stai molto attento, fatti la curva da carico ogni tanto come facevo io. Non ti auguro male, però quando c'è qualcuno in famiglia è sempre meglio stare molto attenti, stare a dieta e cose. No, mio padre è diabetico dalle flebo, più che altro, dalle medicine. Adesso non ha più il diabete, ne faccio di tutto, non c'è più niente. È sano come me. Non c'ha il cuore, è pulsissimo, è perfetto. Adesso il diabete non è più. No, passato. Ma strano, perché il diabete non passa. Il diabete è una malattia cronica. Come è possibile? Il suo era dovuto dai medicinali, capito? Ma lo so, non so risponderti, ma io so che il diabete è una malattia cronica e non passa. Può migliorare, ma può anche peggiorare, quindi. Vabbè, comunque, meglio così, se così, ma io so di gente che anche dalle operazioni sono preso il diabete, lo sai. E mia zia l'ha operata, però mio padre è guarito, non so come, ma è guarito, tanto non so come, non so cosa dire. E meglio così, non c'è la problematica che abbiamo noi. Per dire, Natalino si è operato al pancreas e praticamente gli è venuto il diabete dall'operazione. Che ha preso? No, guarda, casati, io, bene, cioè, io. Basta, strano, eh. Invece io, a volte, invece che a 112 c'era 150 la massima, ma poi il resto, il batti di tutto quanto è tutto regolare. Però mi ha detto che potrebbe essere anche dal fatto che quando l'hanno misurata all'ospedale anche la tensione può essere, capito? No, per te, l'ho misurata oggi la mia, sarà te la massima, non ti dico che è meglio. La massima non fuggio di adesso è 120, 98. No, la pressione era 95, 60. La minima ce l'hai bassa. Appunto, è quello il mio problema, che la minima bassa. Vabbè, comunque, magari se sei di natura così, io avevo la mia ex moglie che era così lo stesso. Che praticamente soffriva di pressione bassa, ma è stata una vita così. È sempre così, non si è mai alzata. Ce l'aveva sempre bassa e bassa le rimaneva. No, non gli succedeva nulla, però ce l'aveva sempre bassa. Infatti, il battito del cuore è sempre lento, è il mio, sempre tranquillo e lento. I battiti come ce li hai? Battiti 85, 70, dipende. No, troppo poco, almeno 80 devono essere. Sono da 60, poi si sparano su 85, massimo 85. Sì, vabbè, ma se ti senti bene cosa ti dà frutti? Magari è natura, capito? Molti ce l'hanno di natura così e non riesci a cambiare la loro pressione è giusta, è quella, buh. Faccio il bianco, se la telefono, dai. Va bene. Cristian, sì che ci sono, c'è qualcuno che voleva entrare, avanti. Chi è avanti? Chi è questa persona che vuole entrare? Avanti. Fammi tanto da voi non entra più. E doveva essere sorso quello dell'altro giorno, dai. Anzi, dove sei tu, Cristian? Sì, sempre lo stesso segnale. No, già va bene, sì. Che antenna stai usando? Ah, sempre la stessa. Già va bene. Ma meglio questo di quell'altro che usavi, per carità, non si comprendia nulla. Cambiato adesso? No, adesso si cambia. Adesso ho attaccato. Ma questo qui, quello con l'eco, è quello che ti ho venuto io. Quello sulle girare? Sì, no, adesso si capisce bene. La voce addirittura ha aumentato anche la voce, capito? Adesso l'ho attaccato, 747. Ma non si capisce chi è attaccato, la verità. Non si capisce perché non distorce nemmeno. E poi siamo anche vicini, non peraltro. Sì, ma se va male praticamente distorce, no? Invece non distorce nulla. Infatti l'antenna è d'aria, è tutto perfetto da me, non ho problemi. Cavagare. Se tu qualcuno più grosso, metto quello più grosso, ma difficile però che lo metto. Vabbè, ma non ti conviene, ti fa parte della centralina secondo come lo usi, capito? Ma guarda, la mia centralina però male, appunto, non è che si imballa molto facilmente. A me mi sei imballata quella della station wagon, figura di due. Guarda, la mia centralina qui piccolina, non mi frega niente, perché tanto a me può parlare così. Ma infatti, non c'è mai nessuno, è difficile che entra gente. Oh, ieri già ce n'era gente, ma non è tutti giù. Ma dovete modulare, sì, non per scontare, poi se dipende da quello che sto facendo. No, io ascolto, non ne faccio quasi mai, quando sento che c'è qualcuno entra. L'antenna, per valutare la per un massaggio. E che antenna è? Una piccola che fa tiro, una piccolina, così, una... Non so che te la sia. Ma come è fatta? La base è tonda, con i radiali e lo stile di Vision 2. Va bene. Non so, se ne fa lui, la sta usando lui per modulare la Ah, quella con la lì. E lui non ne ha più lì. Sì, lui si è messo sui cani da pesca, che ha fatto coso, come un mero, quella di cani da pesca. Ah, ho capito. Perché la continua lo stavo usando da lì, infatti mi sembrava strano. E vabbè, e te la piace? Mi adesso prendo il tubo e mi piace sia quella bibanda e quella normale, quella baracchino anche. Che ha pagato. Va bene, dai. Così almeno ti sentiamo e non devi uscire da casa per farti sentire. Io sono già a casa, sto già tornando nel cancello quasi. Vabbè, dai, allora ti lascio, va. Sei arrivato, ti saluto, ti auguro una buona serata e grazie per il questione. Dai, ci vediamo al limite con questa sera, nella tua zona e ti do il telefono mio anche là. Che bagaglio. Ci sei gara. Andare, ci sentiamo, ciao ciao.